X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Rossella Orlandi è sposata con una figlia Giulia, empolese figlia di piccoli imprenditori, ha girato l'Italia con responsabilità crescenti, sempre nell'amministrazione finanziaria. Da quando ha 24 anni in poi scala tutti i gradini dell'amministrazione e da luglio scorso è la prima donna che arriva dove finora ci sono stati sempre solo uomini, alla testa dell'Agenzia delle Entrate. Sensibile ai problemi sociali, col pallino dell'educazione civica, per mestiere insegue gli evasori e finora spera di saperli distinguere dalle persone oneste che in buona fede commettono un errore. Vuole semplificare il fisco per chi è onesto e per le aziende che stanno sul mercato con lealtà e trasparenza. Ecco, dottoressa Orlandi, ma come distingue un evasore professionale da uno che ha solo sbagliato? Basta guardare la sua storia e poi è il mio mestiere. Senta, ma è vero che si arrabbia se le dicono che fa parte del giglio magico di Renzi? Non mi arrabbio, dico che non è vero. Perché non è vero? Perché io non ho mai conosciuto Renzi prima della nomina e credo che la mia nomina dipenda soprattutto dalla mia storia. Senta, ma esiste una lobby toscana a seguito di Renzi? Ne ha avuto un po' l'accento, lo sente? Ma gli accenti sono forti, perché c'è sicuramente una squadra, più di una lobby io credo nel lavoro di team. Senta, dottoressa Orlandi, bisognava pagare le tasse entro ieri. Lei ha detto, per capire come dovevo fare con la tassa di casa mia, con l'IMU di casa mia, ho perso un pomeriggio. Poi c'è riuscita? Eh? Sì. L'ha capito? E quanto può metterci un italiano normale allora? Beh, più o meno la difficoltà è comune a tutti. Si tratta di reperire date più che altro. Senta, ma non è un'istigazione a delinquere? Una complessità così? Assolutamente sì. Perché? Perché io credo che il cittadino abbia diritto di avere una semplicità nei propri adempimenti, come ha il dovere di pagare le tasse e quindi contribuire al benessere della collettività. Senta, ma lei adesso, per la legge di stabilità di Renzi, deve trovare 4 miliardi e 8 più o meno. Si è già messa al lavoro? Sicuramente. Pensa di farcela? Bisogna essere ottimisti. Sicuramente noi stiamo provando in ogni modo a far emergere una parte di sommerso, di nero, di economia che non si traccia. E come? Soprattutto con un lavoro di analisi e con un lavoro di individuazione delle fattispecie. Cioè, come dice il presidente Renzi, incrociando le banche dati, eccetera. Guardi, non basta mai solo incrociare le banche dati. Occorre poi capire da quelle banche dati qual è il fenomeno che ci sta sotto e muoversi, come dico io, con serenità e efficacia. Senta, ma le piace questa legge di stabilità? Per quello che ho visto, sì. Sì. Senta, ma lei pensa di ottenere risultato dando la caccia soprattutto ai pesci grossi, è così? Allora, guardi, io credo che in Italia esistono vari tipi di evasione, sembra banale, ma è così. E c'è un'evasione che io definisco criminale, nel senso che è un'evasione che attraverso operazioni fraudolente spinge fuori dal mercato le aziende regolari e che è legata spesso a fenomeni come la corruzione. Non credo che ci voglia un grande economista, certo, a capire che accanto a 100 miliardi di imposte evase ci sono 60 miliardi di corruzione. Forse dobbiamo particolarmente Ma lavorare in quel mondo. Ma è più facile individuarli? Guardi, non è questione che sia facile, anzi spesso è molto complesso. Si tratta di agire con determinazione e avere chiaro qual è il nostro obiettivo. Sente di avere gli strumenti necessari? Sì. Senta, lei però vorrebbe fare un fisco, lo dice lei, costruito non sui controlli ma sulla fiducia. Sì, belle parole, ma come? Cambiando innanzitutto la mentalità nostra e degli contribuenti. Quindi bisogna partire dalla convinzione che il contribuente per principio è una persona onesta. È la vostra, è la adesso si pensa sempre il contrario. Se noi ragioniamo in chiave patologica rischiamo di far male. La vostra mentalità in cosa deve cambiare? Quella della sua struttura, prima di tutto, perché ha detto bene lei, bisogna cominciare da lì. Bisogna lavorare insieme. Io credo, c'è una norma adesso in stabilità che qualcuno ha definito cambia verso. Noi dobbiamo passare dall'idea che il contribuente dichiara e poi noi lo inseguiamo, a un'idea in cui noi forniamo al contribuente una serie di elementi per dichiarare il giusto. Quindi più che impedire bisognerebbe impedire l'evasione, insomma, diciamo, bisogna... più che rincorrerla successivamente. Chiaramente occorre fare tutte e due le cose, ma bisogna partire soprattutto dall'idea di rendere difficile evadere, o impossibile, non utile. Auguri. Senta, cosa vuol dire che punta molto sul ravvedimento lunghissimo? Perché mettiamo sempre sullo stesso piano di parità il cittadino e il fisco. Noi abbiamo 4 anni per scovare l'evasione. Noi diamo al cittadino 4 anni per emergere, ovviamente pagando delle imposte, delle sanzioni aggiuntive, perché chi giustamente paga nel termine non può avere le stesse condizioni di chi, certo, paga dopo. Però avere nei 4 anni il tempo, e noi, come dire, lo inviteremo con una serie di elementi a riguardare la sua posizione. Cercheremo... Ma una serie di elementi cosa vuol dire? Le nostre banche dati. Noi abbiamo informazioni, le metteremo a disposizione. Sì. Cioè uno può sapere cosa sapete. Esatto. Questo non le sembra una rivoluzione? Questo mi sembra importante. Senta, dottoressa Orlandi, intanto però il 93% delle entrate viene dal lavoro dipendente, dai pensionati. Allora cosa vuol dire che il fisco cambia verso per un piccolo pezzetto di entrate possibili? Noi cercheremo di, a parte bisognerebbe capire la struttura generale della fiscalità, però evidentemente noi cercheremo di far emergere quella parte che manca. Senta, ma in attesa che riusciate a fare questo cambio diverso, che è importantissimo, lo sa che voi, lei, la sua struttura siete i più odiati dagli italiani? Lo trovo ingeneroso, forse non sia, ma sì, ma non da tutti. Ci sono cittadini e cittadini. Ma lei ha paura? Per niente. No, ma ha la scorta? Non l'ho voluta. Perché gliel'hanno offerta? Vede, io parto dall'idea che una persona come me è una persona come tutte le altre, che ha una storia, una vita, una famiglia, si impegna. Non credo che mi uccideranno. Come dice il mio autista Domenico, è sempre con me: dottore, noi siamo gente per bene, perché ci devono sparare? Vabbè, ma spesso la gente per bene è quella che fa la fine è peggiore. Senta, no, non glielo auguro ovviamente, ma perché vi siete divisi da Equitalia? Non ci siamo divisi. Equitalia è una controllata da dell'agenzia di IMSS. Io ritengo di non poter e non dover cumulare 2 cariche. Non le sembra che ci sia già troppa gente che ha troppe cariche? Questo sicuramente, ma si è capito chi si occuperà della riscossione delle imposte locali? Lei l'ha capito? Vorrei averlo capito, perché il Parlamento non ha ancora deciso e siamo a 2 mesi dalla scadenza. Vabbè, quindi una bella confusione. Ma i tributi locali, in ogni caso, riscossi dagli enti locali, non sono un passo indietro? Sa, noi veniamo da una storia in cui ci sono stati i salvo e recentemente ci sono stati dei privati che sono fuggiti con la cassa. Forse la riscossione pubblica in mano allo Stato o comunque agli enti, quindi pubblica, è una garanzia per i cittadini, forse. Ecco, dottoressa Orlandi, dall'Unità d'Italia a oggi ci sono stati 80 condoni. Ecco, non è che per cambiare verso intanto si fa un bel condono per risolvere un po' di problemi? Guardi, lo escludo direttamente, non solo perché per me, per noi, per la nostra struttura sarebbe assolutamente sbagliato e deleterio, ma perché la Commissione Europea, che è la nostra cattiva o buona insegnante, ci ha già detto nell'ultimo condono che stiamo in infrazione se facciamo una cosa del genere. Quindi, ma credo... è cattiva o buona? Ma l'Europa non è né cattiva né buona, e chiaramente l'Europa è fatta dagli europei e quindi da chi ci comanda. L'idea è un'idea buona. Ci possono essere tante Europe diverse, diciamo. Ecco. Sì, cioè, dipende da come la vogliamo e come la pensiamo. Da cittadina io spero in un'Europa che sia un'Europa dei diritti e un'Europa dei popoli, speriamo sia così. Non degli eurocrati, solo. No, non solo. Senta, quindi è sicura lei che non ci sarà questo condono? Ma io la sicurezza, come tutti, non ce l'ho mai, perché è il Parlamento che decide, lo ricordo. Mi auguro che non sia così e ritengo che sia impossibile che ci sia un condono. Ma si dimetterebbe se ci fosse un condono? Io non mi posso dimettere, io sono un funzionario, quindi dovrei lasciare il mio lavoro. Combatterei, come sempre. Senta, restando in tema, a Genova avete risolto il problema con chi ha perso tutto? Sta uscendo un decreto, come sempre il ministro, non è l'agenzia, sta uscendo un decreto per la sospensione e il rinvio di ogni pagamento. Ma sospensione e rinvio di quanto tempo? Il ministro deve decidere, di qualche mese penso. Cioè, quindi fra 3 mesi i vostri esattori si troveranno lì a bussare alla porta di chi ha perso tutto? È possibile. È possibile, veramente la storia non dice così, normalmente sono tempi abbastanza lunghi. Ma tipo? Ma quelli della Emilia Romagna, purtroppo lei si ricorda, scadono ora e noi, cioè sono passati 2 anni e noi stiamo proponendo una ripresa che però, ripeto, dipende dal ministro, non da noi, rateale, quindi dandogli un tempo ulteriormente lungo per poter rientrare. E questo potrebbe essere il modello Genova, il modello da applicare a Genova. Normalmente la storia ci dice che è così. Senta, dottoressa Orlandi, ma esiste un'evasione di sopravvivenza da riconoscere come tale? Guardi, io continuo a dire che ci sono sicuramente diverse realtà. Parlare di sopravvivenza è abbastanza difficile da individuare. Senta, ascolti un attimo cosa ci ha detto Befer l'anno scorso a questa, rispondendo a questa domanda il suo predecessore. Ma quindi l'evasione di sopravvivenza può esistere? Penso di sì, ma non essendo io un evasore. Senta, ma se la pressione fiscale fosse minore, sarebbe meno, ci sarebbe meno evasione secondo lei? Indubbiamente, perlomeno cioè, ci sarebbe meno evasione da carenza di liquidità. Insomma, lui l'ha sentito, dice di sì, all'evasione di sopravvivenza, la capisce, lei? Io ritengo che ci sia sicuramente una forte necessità per alcuni soggetti proprio di eliminare. Insomma, Befer ha ragione o torto? Diciamo una via di mezzo. Io credo che non come si fa a avere una via di mezzo tra ragione perché e torto? No, le spiego perché nulla è in bianco o nero. In questo paese siamo un po' troppo convinti di avere sempre ragione. C'è sicuramente qualcuno che è in difficoltà assoluta nel versamento e quello è una difficoltà assoluta, quindi più che come sopravvivenza. Diceva lui, poi c'è tutta una parte in realtà che è quella a cui si pensa, che fa esclusivamente lavoro nero. Quella non è evasione di sopravvivenza, certo, è scelta. No. Senta, ma c'è troppa pressione fiscale però. È chiaro, è evidente, ce l'abbiamo tutti. Ma è lei che spinge l'evasione anche? Cioè la giustifica moralmente in qualche modo? No. Assolutamente. Io credo che ognuno di noi debba sapere quali sono i suoi doveri. Poi ripeto, ci può essere qualcuno che si palesa e che ti dice non posso pagare, questa è la mia dichiarazione, non mi sto nascondendo. E a quello cosa le dice lei? A quello io posso solo dire in base alla legge, perché io applico solo la legge, quindi sono altri che decidono, che gli fa una lunga rateazione, gli do una sospensione, cerco di indurlo a rientrare pian piano nel sistema, altro non posso fare, applico la legge. Senta, ma con gli evasori funziona la strategia della paura? Non ha mai funzionato fino a oggi. Perché è 40 anni che noi cerchiamo di far paura agli evasori e quelli quindi continuano. È inutile fargli paura? Credo cioè che è meglio trattare che fare paura? No. Che no, cosa è meglio fare? È meglio, come dire, costringerli, come dico io, e quindi non è fare delle grida o delle minacce. Credo che occorra, come dire, seguirli punto punto e dimostrare punto punto che quello non lo possono fare, che gli dobbiamo stare addosso. Lì dovete cambiare anche voi, però. E le ho detto, certo, noi ci siamo impegnati a cambiare verso. Senta, ogni tanto la sensazione di combattere con i mulini a vento ce l'ha? Sì, io sono convinta di essere, come dire, un Don Chisciotte. Tutto sommato forse arriva dalla mia natura, come dire, di letterata, romantica, ha sempre amato la lettura. Non mi arrendo, anche se sono Sancho Panza. Che cos'è che le piace leggere? Di tutto, sono una lettrice onnivora. E il suo autore preferito adesso, oggi? Ma forse continua a rimanere Pavese, e però ce ne sono anche altri più moderni, senz'altro. Senta, ma è vero che il redditometro l'ha inventato lei? No, cioè no. L'ho letto, preparando... Sì, mi hanno chiamato lei di redditometro. In realtà, allora, io ho scritto una circolare nel 2007 in cui ho, come dire, richiamato l'utilizzo, fra l'altro innovativo, del redditometro e da lì è ripartito tutto il ripensamento. Insomma, che è lei? Le hanno detto che è lei? Sì, ma il risultato c'è stato? Non soddisfatta del risultato del redditometro? Attuale? Sì. Quello ultimo? Sì. No. No, perché? Perché in questo momento l'incrocio dei dati non è al potenziale massimo, in quanto ci sono una serie di limitazioni, non le sto a dire, e quindi non fa emergere effettivamente quelli che ci interessano. No, non la ricchezza. Vabbè, il redditometro per misurare. No, perché questo è un grande problema. Questo l'ha detto anche Befero l'anno scorso. In realtà con il redditometro noi vogliamo vedere chi non dichiara ma ha ricchezza. Okay. Chi è ricco e dichiara. Quello è un cittadino. Interessa, normale, quindi certo. Non cerchiamo la ricchezza. Ma per lei chi è ricco? Per me l'idea di ricco è di qualcuno che ha somme molto in eccedenza alle necessità sue, della propria famiglia. E lei è ricca? Io sono una persona che lavora e che ha un buon stipendio. Quanto guadagna? Come tutti, 240.000 euro lordi, 110.000 netti. Senta, dottoressa Orlandi, ma qual è l'obiettivo del 2015 per l'Agenzia delle Entrate? L'obiettivo è quello di cambiare verso, cioè quello di riuscire a instaurare un rapporto sereno, non una, diverso, con i contribuenti e far emergere un pezzo di quell'evasione. Ma ha un numero? Vabbè, quei 4 miliardi che deve dare. Allora, noi abbiamo ogni anno, per far capire, una convenzione col Ministero dell'Economia che stabilisce quali sono gli obiettivi. E quanto gli dovete dare quest'anno? Ma io penso gli dovremmo dare sui 15 miliardi. Sui 15 miliardi. Senta, ma lei ha fatto tutta la carriera nell'amministrazione finanziaria, la rifarebbe? Sì. Le è piaciuto, insomma? Sì. Senta, ma lei usa ancora il contante o solo la carta di credito? Io vivo a Roma e abito a Firenze. Sono di sicuro necessitata a usare bancomat e carta di credito, altrimenti morirei. Senta, ma la riduzione del contante serve nella lotta all'evasione? Serve anche molto aumentare la commissione delle banche? No, io credo che in realtà serva, come tutti gli altri paesi del mondo, anche per ridurre l'evasione, ma serva per tracciare altre cose, riciclaggio e altro. E la commissione delle banche devono diminuire? Io l'ho dichiarato che a mio modo, ma non sono io scelto il presidente dell'ABI, occorre un ripensamento su queste commissioni se vogliamo indurre la senza sanzioni la gente a utilizzarlo come tutti gli altri paesi. Però è ancora 67% il valore delle transazioni questo dirette. Le dice come siamo strani in questo paese, non lo è da nessun'altra parte. Ma chi è che rema contro la moneta elettronica? Secondo me la paura. Gli italiani hanno molta paura. Non si fidano della carta di credito? Hanno paura di essere tracciati, hanno paura di dover pagare. Siamo un popolo diffidente anarchico su queste cose. Senta, un'azienda per avere il rimborso dell'IVA aspetta in media due anni e mezzo. No. Non è lei vero. Ha detto che adesso sarà più veloce? Guardi, di mesi, di settimane, di giorni? Allora, come al solito, quanto ci vuole? Allora, attualmente sì, siamo nell'ambito, perché sono due mondi, dei trimestrali, cioè di quelli che ne hanno bisogno immediatamente, dai 6 ai 9 mesi, e pensiamo di ridurli di qualche mese. Gli annuali ora sono in pari, quindi siamo riusciti a togliere il magazzino negli ultimi 2 anni, abbiamo lavorato moltissimo. Occorre mediamente un anno dalla presentazione della dichiarazione. Senta, per pagare le tasse gli italiani lavorano 161 giorni, le sembra giusto? Guardi, pensi a me che sicuramente ne lavoro di più, quindi sicuramente non, perché ho l'aliquota marginale più alta, quindi sicuramente sono più di 161. Può non essere contenta anche lei, è lecito. Senta, è sempre più frequente, infatti, che si va via dall'Italia o per evitare le doppie tassazioni o per cercare le doppie esenzioni. Come si fa a evitarlo? Intanto si fa quello che si sta facendo ora sul piano internazionale. Finalmente l'Europa ha cominciato a reagire, perché se non abbiamo una coerenza fra stati unilateralmente si fa poco. Occorre una presa di posizione di accordi bilaterali. Cioè, solo questo può indurre ad avere un fisco che attrae le imprese e non le fa scappare? No. Quello aiuta a evitare le frodi e chi scappa per altro. No, ma chi scappa invece cioè, perché chi scappa effettivamente scappa, va a accettare. Forse va a cercare una tassazione minore. Ma va a cercare minore. Una tassazione minore. È lecito. Se effettivamente se ne va. Se finge ad andarsene se finge è un'altra storia. È un'altra cosa. No, credo che occorra, e qualcosa c'è ora nella finanziaria, fare un fisco di maggiore attrattiva, soprattutto su innovazione, tecnologia, brevetti, marchi, e ecco, quello c'è ora. Ecco, senta che cosa capita a dei ragazzi che in concreto sono innovativi, giovani, lavorano col venture capital. Avevamo crediti verso lo Stato per 150.000 euro di imposte, e siccome però il modello del venture capital, cioè dell'investimento di rischio, prevede investimenti grandi iniziali e zero ricavi per un po', quindi è normale che qualsiasi startup innovativa di tecnologia abbia un credito di imposta verso lo Stato, perché pagherà IVA che non gli viene rimborsata. Ora, questo che è scontato, e per chiunque capisca come funziona il venture capital dovrebbe essere evidente, e invece ovviamente non rientra nei parametri della normalità delle aziende italiane, e quindi per convincere l'Agenzia delle Entrate a ridarci i soldi che erano nostri abbiamo impiegato quasi 18 mesi. Beh, c'è da fare qua. Vede, quella fa riferimento ad una particolare disciplina che è quella del rischio delle società di comodo. Sì. Quindi chiaramente noi per essere sicuri che sia quello ci mettiamo del tempo. Dobbiamo ridurre i tempi. Ci vuole anche una cultura però, sì, per capirlo. No, sicuramente, ma qui è una questione di procedure che sono molto lunghe e quindi stiamo tagliandole. Non è questione di capire. Solo di procedure. Senta, ma sarebbe giusto passare da un fisco concentrato soprattutto sul lavoro e imprese a uno più concentrato sui patrimoni? Beh, la scelta della patrimoniale è una scelta politica, non è una scelta tecnica. Certo, naturale. Ma lei? Quindi io credo che, come al solito, bisogna fare un mix. Nella tassazione è necessario un mix per avere equilibrio dell'una e dell'altra. Però più concentrazione sui patrimoni? Potrebbe essere utile da un punto di vista fiscale, potrebbe essere pericoloso fra virgolette da un punto di vista economico, quindi come al solito il mix. Senta, dottoressa Orlandi, voi discutete anche una delle tasse più evase dagli italiani, che è il canone televisivo. Sì. Ecco, perché non riuscite a farvi pagare? Voi lo sapete che il canone televisivo è regolato da una legge del 1938. Ah, un po' presto. Un po' presto, che parlava di Rai, ma parlava di radio, ed è talmente astrusa e consente così pochi poteri che di fatto è molto difficile. Quindi voi non potete applicarla, sta legge, mi sta dicendo? No, è molto difficile da applicare. Ma 30% di evasione. Vede, lei sa quanto è il canone RAI, sta sotto i 2000 euro, per una legge Stato fino a 2000 euro con la riscossione coattiva noi non possiamo fare niente. Ah, quindi è come dire, vedete che intanto non fa niente nessuno. Forse chi ha pensato quella legge si deve fare delle domande. Comunque intanto nel frattempo chi evade non rischia nulla. Vabbè, rischia che noi lo tormentiamo con cartelle esattoriali, ma fino a 2000 euro non c'è niente da fare. Deve ripensarci il Parlamento a questo, è scandaloso. Sì, è molto importante. È scandaloso. Anche perché dire si vuole servizio pubblico, poi non dare il modo di riscuotere il canone, o sì o no. Ecco, dottoressa Orlandi, le faccio un'ultima domanda. In Svizzera si calcola che ci siano, non so se è un calcolo esatto, ma più o meno, circa 70 miliardi in fuga dal fisco italiano. Dopo gli accordi che sono stati fatti, insomma, di quei 70, o comunque di cui si parla, insomma, non so se sono stati già, se sono operativi, di quei 70 miliardi, quanti potrebbero essere veramente rimpatriati? Allora, o recuperati sono due cose diverse, la firma ancora non c'è con la convenzione, è stata approvata stanotte dalla Camera una legge che si chiama Voluntary Disclosure, su cui stiamo lavorando intensamente per recuperarne una gran parte. Perché questa legge che strumenti vi dà in più? Consente, unita al fatto necessariamente che ci sono degli accordi internazionali al cittadino che deve riportare i soldi di presentarsi a noi. Noi faremo un riscontro puntuale, gli faremo pagare le tasse e le sanzioni, ma la norma depenalizza, che è una delle preoccupazioni che hanno. Noi riteniamo che con lavoro serio si riesca a recuperare gran parte. Tipo? Ma non lo so, qualche decina. Si dia un obiettivo. Ma no, da punto di vista di capitale qualche miliardo pesante, probabilmente anche di imposte e parecchia roba. Grazie. Mix 24. Faresti, Mario, tu, dell'intervista ad Orlandi? Ieri avevamo messo Battisti, o l'altro ieri, con Innocenti Evasioni. Io cambierei solo una vocale finale, farei l'innocente evasione. L'innocente evasione del canone. E tu, Pietrangelo? Spezzeremo le reni al canone. So, è successo che stamattina, prendendo la metropolitana, era ancora buio, nel bel mezzo di quel buio tra i vagoni io ho trovato quello che ho registrato. Questa è una registrazione che ho fatto io, perché non facevano altro che suonare, cantare, brindare. C'era pure quel profumo di vodka che non riusciva a stonare malgrado l'ora, anzi era tutto un offrir di tartine, insomma facevano festa, festeggiavano, era un compleanno, era una cosa che metteva insieme l'Europa, l'Asia, era qualcosa che insomma faceva capire che in questo nostro pezzo di storia, in questo nostro pezzo di geografia, c'è sempre spazio per una festa che è tutta eurasiatica. E là. Nella tua pentola eurasiatico a Milano lui ce n'è tanto. L'ha chiamata e quindi. Ci mancava. Una dose, due la settimana bisogna pur farle, sennò poi la via Veneto non capiscono. Allora. Avete visto le immagini da Belgrado? Scusa, però se vuoi farlo capire meglio a Via Veneto, mi permetto di suggerire l'inno imperiale russo, che è meraviglioso. A Via Veneto hanno... Secondo me hanno dei problemi con la storia. Comunque, sì, questo è vero. E non solo, anche la Casa Bianca. Vabbè, insomma, le avete viste le immagini da Belgrado, Giovanni, certo, con Putin, certo, la parata, no. Pietrangelo, tu le hai viste? Cronometrico e millimetrico quel passaggio tra le baionette. L'hai visto? Fantastico. Altro che andiamo a Chigi. Andiamo a Chigi, sappa un brodino! Adesso allora, è arrivato a Milano dopo una parata militare a Belgrado incredibile, sì. Accolto come un eroe nazionale. Allora, è arrivato a Milano, è arrivato tardi, non ha fatto la cena di gala, ha incontrato Angela Merkel subito la notte fino all'1:30 e il vertice è andato male. Stamattina i colloqui sono ripresi tra Putin, Poroshenko, c'era anche Renzi e Merkel. Putin ha detto che la distanza tra lui e la cancelliera tedesca è molto grande sulla questione dell'Ucraina, del gas, della pace. Staremo al freddo quest'inverno. Staranno gli ucraini. Noi non credo alla fine, perché insomma Putin in questo è molto realista. Vediamo cosa succede in questo vertice ASEM a Milano. È anche l'unica cosa che succederà probabilmente, cioè o la rottura o lo stallo o addirittura un avvicinamento, ma lo vedo difficile per ora tra le varie parti. Nostra vita, uno smartphone, caro Giovanni. Allora, vabbè, la canzone è molto bella. Ieri abbiamo parlato di Google e della nuova versione di Android del suo sistema che arriverà tra qualche settimana, cioè il Lollipop. Ieri c'è stata una mossa invece di Apple che ha allargato la gamma dei suoi prodotti. Ha lanciato un nuovo iPad Air, un iPad Mini, un iMac con schermo da 27 pollici in HD e un Mac Mini, più vari ed eventuali. Sembra il menù di McDonald's, no? E vai là e cominci a scegliere, magari ti confondi. E però così bisogna guardarlo in realtà. Ai tempi di Steve Jobs tu avevi due tipi di iPad, tanto per dire. Sì. E oggi sono diventati sei. Puoi combinarli in vari modi, potenza, schermo, processore, colore, vabbè, così tutta via. Tutta tecnologia. Sì. È interessante perché per chi guarda queste cose, ripeto sempre, questa è la ciccia vera della contemporaneità nel mondo, della tecnologia, dell'economia, del commercio mondiale, eccetera, è il frazionamento dell'offerta per andare a caccia dell'ultima cosa. Ognuno avrà cliente. Il suo tra poco. Ognuno avrà il suo. Però intanto hai visto in Spagna la web tax e Google stanno veramente ferri corti. Sì, ma tanto se non fanno una legislazione europea ci sarà sempre un posto dove andare. Si comincia, Salamino. Lo primo amore, lo feci tutto via. Cuti ludissi! Allora, Giovanni, Mario, un nostro radioascoltatore, Nuccio Nigro, ci scrive e dice che l'uso dell'espressione piritollo da voi diffusa su scala nazionale lo diffusa. Seguo. Insomma, è allora lui dice che dalle bello, sue su scala nazionale. Su scala nazionale, perché Radio 24 dove trasmette. No, voglio dire. Dove trasmette. Allora, scrive Nuccio Nigro, dalle mie parti di Sicilia, è precisamente il contermine tra Ragusa e Siracusa, il termine usato è pipitollo. per dire di un atteggiamento falsamente autorevole e solenne, ma degno di sfottimento. Dopodiché, nella sua lettera fa notare che invece noi ci nascondiamo pietosamente in una interpretazione, siamo un po' più pulita, perché vogliamo evitare quello che si rivela nel piritollo, cioè una certa idea di puzza, di fetore, insomma, finì o affieto, che è un'espressione tipica, dove insomma mettiamo alla berlina i piritolli da noi indicati, eccetera eccetera. Però io, siccome devo dare una risposta, serve un esperto, Cassazione in materia. Giovanni è chi è? Il grande regista, nonché con direttore del Foglio, maestro Peppino Sottile, che ce l'abbiamo al telefono. Allora, buongiorno. Ci dia la sapienza. C'ho già la sciarpa bianca che mi cola davanti, come si conviene a un regista. Detto questo, vorrei smentire tutte queste, come dire, piritollate sulla parola piritollo. La parola piritollo è una cosa seria, pensa che deriva addirittura dal greco piritollomai, che significava camminare con i gomiti, proprio dei bambini che gattonano. Cioè, quindi, in senso esteso, come la filologia ci suggerisce, potremmo dire che piritollomai significa sgomitare. Nel corso dei secoli questa parola ha trovato delle nuove accezioni e oggi, volendo fare una sintesi, significa che il piritollo è quello col ditino alzato, ma è l'uomo di sinistra che cerca praticamente uno sfondamento sia a destra che a sinistra. È quello che si vuole fare notare, quindi praticamente, se vogliamo capito, cadere nella battuta, è il ditino alzato con scappellamento sia a destra che a sinistra. Fantastico. 800 Grazie maestro. Grazie. 800 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS, cioè una supercazzola. Beh, una supercazzola praticamente di quello era. E infatti, se non ci fosse Renzi, i piritolli non avrebbero cittadinanza e sono legati. Continuiamo. Vabbè, dai Giovanni, ci cacciano, che ce frega. Ancora una bolla. E se allora una femmina si chiamerà Futura, il suo nome detto questa notte mette già paura. Che pezzo, grandissimo. Senti, sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Devo dire che Dalla non ci manca, perché ogni volta noi ce l'abbiamo, di fatto è un pezzo del nostro immaginario. Allora, Futura, perché parliamo un po' di futuro. Allora, leggevo un pezzo fantastico oggi su Medium, stamattina presto, e il futuro degli umani, caro Giovanni, non mi stanco mai di ripeterlo, intelligenza artificiale, dipenderà molto dai robot, più di quanto si possa immaginare oggi. Non prendetemi per matto, però stanno arrivando, e il problema sostanzialmente è solo uno: dobbiamo sperare che vincano i robot che aspirano ad essere dei computer eccezionali e non i robot che invece vogliono diventare dei mediocri umani. Se vincono i secondi, cioè quel tipo di tecnologia, noi siamo fregati. Ma ci salverà chi? Goldrake. Mix 24. E allora ecco la posta del cuore. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. Giovanni, è arrivata una lettera che ha fatto molto discutere la redazione femminile di Mix 24. Ci scrive Libera 78. Ho 36 anni, un lavoro di cui sono fiera e che mi rende la donna indipendente che ho sempre voluto essere. Sono single, o meglio sola, che è più onesto. Comunque sia, sono uscita con un uomo e al solito al conto ho preso la borsa per dividere equamente. Ti prego, ha detto lui. Sarà stato il suo tono pacato e fermo, ma mi sono passate davanti decine di momenti imbarazzanti culminati con cene in posti improbabili. Pagamento anticipato e il mio accompagnatore che faceva la spola con il buffet per riempirsi il piatto. Insomma, sono rimasta ferma a guardare il mio cavaliere che estraeva la carta di credito. Che sollievo! Ebbene sì, dietro anni di cortesissime risse fatte di «pago io, ma per carità, insisto a pagare almeno la mia parte», ho sempre nutrito l'inconfessabile desiderio che fosse lui a spuntarla. Alla fine scopro che voglio essere come mia nonna? Ma è interessante! Molto. Sentiamo, per esempio, il parere di un uomo di mondo, Pietrangelo. Mm-hmm. Lui e lei a cena. Chi paga il conto? Manco a dirlo. È una domanda che non ha senso. Cioè? E cioè, la signora si chiede, dice, alla fine scopro di essere come mia nonna. Mm-hmm. Deve semplicemente scoprire di essere innanzitutto come una donna. E le donne non pagano? Ma non pagano, le donne hanno diritto al privilegio del ruolo sacrissimo di essere donna. Ma figurati se possono pagare. Allora che senso ha tutto quello che abbiamo attraversato, quello che siamo stati, perfino nei banchi di scuola, a imparare l'amore cortese? Vedi, queste moderne superstizioni, queste cose orrende quali la democrazia, la psicoanalisi, quelle porcate che si... le depravazioni tipiche della modernità hanno portato a questo equivoco. Invece è giusto che la donna sia trattata come donna, e me la cavo con un verso di Shakespeare quando diceva: piano, toccatela piano, perché fu donna. Bellissimo. Però il verso di Shakespeare sì, certo, volevo dire il verso di Shakespeare, però il tema è un po' più controverso. Ma perché siete superstiziosi voi? Io assolutamente no. Ah, brava. Non però mangio il sushi. Però Pietrangelo continua a rifarti la domanda, messa così: deve pagare l'uomo anche se esce con una donna che è ricchissima e che ha scelto lei un ristorante con tante stelle Michelin che non sa neanche più dove metterle e che magari mangia così? Che te sei scofanato, eh? Antipasti misti, agnolotti, trippa, abbaglio, osso buco, zuppa di pesce, dolce, macedonia, caffè, ligurino, fagioli col tonno, servizio, pane coperto e vino, 7.750. Allora? Sì, a costo di andare a lavare i piatti dopo. Deve pagare lui. Va bene, mi piace questa risposta. Allora, libera 78. Facciamo così. Per superare questi decenni di lotte femministe, io ti consiglio di invitarlo a cena a casa tua, così superiamo il problema del conto da pagare. Se però fosse troppo difficile per te goderti un uomo generoso, allora ti chiedo gentilmente di inoltrare il numero a mix24@radio24.it, perché ci sono parecchie richieste per uscire a cena con lui. Oggi raccontiamo la storia di un mito. È piccola, ma ha 4 posti. È lunga 2 metri 85 di lunghezza, 1,32 di larghezza. Ha fatto sognare gli italiani e la Fiat 500. Ecco come la ricorda Philippe Daverio. In tre, uno mio fratello grosso come me e un altro suo amico piccolino, con un portapacchi infilato sul tetto a martellate per tenerlo diritto in modo da aprire il tettuccio, perché la 500 prevedeva il viaggiare a tettuccio aperto, assolutamente. Feci 6.000 chilometri fino in fondo alla Cappadocia. Dopo il giornale radio, la storia della Fiat 500 raccontata insieme a Marina Milone, che intervisterà Francesco Alberoni. E per finire, intanto, sentiamo questa canzone di Patti Bravo.